Buonasera a voi. Quando il fumo si dirada, il libro di Federico Racconi. Prima di tutto, grazie a Federico per avermi chiamato in questo dialogo, in questa giornata all'interno di Festambiente. Quando il fumo si dirada è un racconto di una storia di 40 anni, ma anche un racconto di una vita, o meglio, di tante vite e tante esperienze che stanno all'interno di Roma, di un determinato periodo storico e di eventi che si sono succeduti. Dico di tante vite perché lo stesso Federico, nel momento in cui ha pensato di scriverlo, l'ha scritto in terza persona, per cui tutto gira attorno alla sua esperienza, ma nel frattempo in quell'esperienza si vanno ad incrociare tante esperienze delle persone che hanno vissuto quegli anni intensamente. Dico anni intensamente perché dall'età degli anni 80 fino ad arrivare oggi sono stati anni di battaglie, anni di amicizie, anni di politica, anni di passione. Passione in vari campi, dalla passione appunto per la politica e per l'attività sociale che si sviluppava intorno alla politica in quegli anni, in una Roma particolare, a quello che poi è stata la passione di Federico per il cinema, per la radio e per il teatro, che poi sono stati gli elementi che, diciamo così, ancora oggi con forza porta avanti e con determinazione. Il bisogno di riuscire a scrivere questa storia, la necessità di farlo e anche a un certo punto di dire facciamo un punto di questi anni. È partito da che cosa? Tanto grazie a te di parlare con me del mio libro. Sei stata la prima persona che mi è venuta in mente per questa occasione di Festambiente. Ci siamo sentiti per varie occasioni riguardo al festival da te organizzato, Festival Resistente, e mi piacevi come persona, quindi sono contento di questo. Da che è venuto? E non ci pensavo proprio. Poi Valentina, la mia compagna, mi stimolava continuamente, diceva: ma scrivici, perché ogni tanto gli arrivavano sprazzi di miei ricordi, però io non ne capivo molto lo scopo, e neanche a chi potesse essere diretta questa memoria. Poi è uscito il libro di Andrea Catarci, Generazione di rimessa. Ho voluto intervistarlo, Andrea Catarci, lo conoscevo dal periodo del movimento studentesco della Pantera del 90, è stato uno degli animatori politici del quartiere di Garbatella, un quartiere che a me piace molto, è stato poi per 2 mandati presidente del municipio. L'ho intervistato per questo libro sulle sue memorie, e quando poi lui mi ha invitato a parlarne insieme, a un incontro di presentazione in forma di dialogo in un evento fuori Roma, e poi dopo averlo letto ho capito che era una cosa possibile. Lui poi parla in particolar modo dei suoi anni 80 e 90, a partire dalla provincia vicino al lago di Bracciano, lui è cresciuto e vissuto prima di approdare a Roma. Però ho capito che la memoria è un elemento che per certi versi ci accomunabbia, ho avuto dei percorsi abbastanza simili per certi versi, e quindi ho capito l'importanza poi del trasmettere quello che si è fatto, perché è una storia, e qui arrivo anche alla scelta della terza persona, che è stata immediata, perché ho cercato di guardarmi dall'esterno con un occhio un po' più distaccato, e poi ho tenuto conto del fatto che questa è una storia che è stata attraversata da migliaia di persone, a partire dalle prime battaglie al liceo, passando per il movimento studentesco della Pantera, insomma. E poi mi auguro, insomma, che le presentazioni da fine agosto a settembre, cominceremo anche a Roma, siano un modo anche per, oltre che per rincontrare persone che hanno attraversato questa storia, anche un momento di dibattito, anche di bilancio di alcune stagioni di lotta. Partendo dal titolo, Quando il fumo si dirada, appena l'ho letto ho avuto un'immagine che forse poi condotta dall'immagine stessa della copertina, da una foto di Tano Amico che riprende appunto Federico in un momento di un'occupazione dei binari del treno e che è stato, insomma, immortalato in quel momento, in quell'occasione, e che poi ha dato pure seguito a tutta una serie di attività. Insomma, questi erano gli albori del Federico che si muoveva e iniziava la sua attività politica e sociale. Il titolo rimanda da una parte a quella che è un'esperienza, l'esperienza della piazza, il tema, diciamo così, anche, diciamo, duro alle volte di quelli che possono essere stati gli scontri e la situazione sociale non semplice che si viveva. Nel libro Federico, o meglio Fedingo, che in realtà è il nome che prende Federico nel momento in cui parte l'esperienza del centro sociale a Scatasuna, e che da quel momento in poi diventa un po', diciamo così, il soggetto protagonista del libro nei suoi vari passaggi. Questo titolo è solamente, sicuramente non lo è, rappresentativo di quel momento, o quando ti hai pensato a questo titolo c'era dentro pure il momento di fare un punto sulla situazione, quindi dal momento dell'agitazione, dal momento dell'attività, dal momento, diciamo così, del protagonismo vissuto con intensità giorno dopo giorno, a un certo punto uno dice: bene, e ora guardiamo oltre la nebbia, guardiamo dopo, oltre l'eccitazione che ci può essere nel vivere quei momenti, e sicuramente, insomma, da un osservatorio più specifico che può essere quello della capitale, di una metropoli come Roma, è un po' differente da quello degli occhi o dello sguardo che si può avere da una città di provincia. Bene, oltre quello c'era da mettere un punto su quella storia. È un po' questo il senso del titolo, o altrimenti qual è il senso vero del titolo? Hai colto entrambi gli aspetti, perché la prima immagine che mi è venuta in automatico, visceralmente, non è stata ragionata, è stata quella di una strofa degli Assalti Frontali. Davanti al fuoco della strada la nebbia si dirada, e mi piaceva quell'immagine, perché poi si rimanda al fumo dei fuochi, dei lacrimogeni, degli scontri di piazza, e dall'altro la nebbia, il fumo, è quello delle emozioni che un po' accecano. E quindi sì, il momento di un bilancio è quello quando un po' tutto si placa, perché, diciamo, i momenti più duri hanno attraversato il decennio dei 90, dopodiché è subentrato il mio impegno radiofonico e quindi la focalizzazione sulla cultura da un punto di vista antagonista, sicuramente riguardo al cinema e al teatro, però insomma avere un po' uno sguardo un po' più esterno, un po' più distaccato, voleva dire anche, ecco, guardare oltre il fumo anche delle dimenticanze, perché poi è stata anche un'opera di ricostruzione mnemonica, tutti i vari passaggi. È un libro che mi ha preso, insomma, quasi un anno di attività negli spazi che ho potuto dargli. Insomma, ho cominciato a fine luglio dello scorso anno e, diciamo, a febbraio-marzo era chiuso, più o meno. A un certo punto nel libro te citi una frase scritta su un muro che era un passaggio, diciamo così, secondo me importante anche per la mia generazione, in generale, cioè di tutte le persone che si sono impegnate sempre nella vita in qualche cosa, nell'attività, diciamo così, politica, nell'attività sociale, e che a un certo punto fanno pure il punto della situazione. Questa frase dice: a chi non ha mai vinto, a chi non è mai vinto. Bellissima. E quello rappresenta, secondo me, il centro, cioè nel senso, magari una persona di vittorie ne può avere poche nello zaino, però non si dà per vinto e è ancora pronto a muoversi. Per te l'attivismo in quel periodo, Federico, Fedingo, è stato protagonista, diciamo così, per chi non lo conosce, per ricostruire un po' la sua attività, di esperienze di occupazioni di spazi autogestiti come la Scatasuna, come la pirateria, e comunque è stato all'interno di quel mondo, di quei mondi, in un quartiere specifico che era inizialmente Monteverde, con tutte le particolarità di quella situazione. tu oggi senti ancora di non darti per vinto o pensi che quell'esperienza ti ha dato la capacità di riuscire ad avere uno sguardo rispetto all'esterno, quindi è stata ricchezza, è stato valori che si sono sommati l'un l'altro, oltre alle conoscenze, oltre alle vittorie, alle sconfitte, molto di più magari le sconfitte, però ecco, ancora oggi te dici quel percorso andava fatto, cioè nel senso riscrivendo e rileggendoti lì, oggi la persona esterna rileggendo questo libro dici Felingo ha fatto bene a fare quel percorso. Diciamo che non rinnego nulla, poi guardando con occhio un po' più distaccato al passato ti accorgi che hai fatto anche tante cazzate. Però considerato il fatto che io non ho avuto maestri, sono state tutte mie scelte e di sconfitte ce ne sono state tante, alla fine facendo un bilancio ti accorgi che più delle vittorie o sconfitte quello che conta è l'esperienza che hai fatto. Questa esperienza sicuramente mi ha arricchito tanto, soprattutto dal punto di vista umano, perché sono entrato in relazione con veramente con migliaia di persone che hanno fatto dei pezzi di questo mio composito percorso e quindi sì, ho creato anche dei problemi in famiglia, insomma, perché quando ho vissuto i momenti più difficili i miei ne hanno sofferto abbastanza, però anche lì d'altronde quando metti al mondo un figlio poi deve fare la sua vita. Io ho cercato in tutti i modi poi di condizionare il meno possibile le persone care, poi l'ho pagato tutto sulla mia pelle, insomma, quello che ho fatto. Quindi secondo me è un percorso, ecco, che non rinnego. E intorno a questa storia Roma degli anni 90, Roma della metà degli anni 80, Roma dell'inizio degli anni 2000, fino ad arrivare oggi, perché questo libro arriva fino al Teatro Valle Occupato e quell'esperienza. Come l'hai vista cambiare e soprattutto rispetto pure all'esperienza, diciamo così, del quartiere di Monteverde, di un certo livello di identità, di un primo percorso che, come ti dici, non aveva padri politici, per cui insomma quello che si faceva era una dimensione che andava oltre quello che poteva essere targetizzato come autonomia operaia, movimenti dell'autonomia, movimenti dell'antagonismo più o meno che aderivano a una certa o un'altra filosofia. Roma oggi, rispetto a questo scenario, te come la vivi? Da persona che l'ha vissuta in un momento in cui, diciamo così, c'era un fervore, c'era una forte attività politica, sicuramente ce n'è pure oggi. Però il tuo sguardo verso Roma oggi, che poi sta dentro questo libro dal punto di vista pure delle relazioni umane che si andavano a stringere in quei momenti. La Roma di oggi quanto è cambiata rispetto a 40 anni fa, rispetto a quello che ti hai davanti e a quello che vivi quotidianamente, visto che poi ancora oggi hai una libreria a Roma, gli abiti quotidianamente continui ancora oggi tramite Radio Onda Rossa a lavorare su temi sociali, anche se poi strettamente collegati alla cultura. Sì. Per dirti, il quartiere in cui sono nato e in cui ho sempre vissuto, cioè Monteverde, a vederlo oggi ha gli stessi problemi, le stesse caratteristiche di quando volli dar vita a un centro sociale, perché per esempio mancavano luoghi di aggregazione sociale, perché mancavano luoghi in cui proporre cultura. Ecco, questo è ancora oggi così. Diciamo che dalla metà degli anni 80 a tutto il decennio 90 l'esperienza delle occupazioni degli spazi sociali autogestiti è stata un fermento incredibile. Come ti dicevo poco fa, prima di cominciare, sto finendo di leggere un'antologia che si chiama Detonazione, che raccoglie i contributi più svariati di chi ha vissuto quel decennio dei 90 a Roma, dalle radio alle riviste, agli spazi occupati, agli hackers, e ti rendi conto che Roma in quel periodo è stata un laboratorio, diciamo, anche di dimensioni europee, perché veramente ha prodotto tanto. Ecco, quel movimento dei centri sociali ha raggiunto il suo culmine, secondo me, nella seconda metà degli anni 90, quando entrò in trattativa con il comune per l'assegnazione degli spazi ai relativi occupanti, cosa che poi per certi versi è stata fallimentare, però ha imposto la dialettica politica all'amministrazione. Era una realtà veramente... Roma tutt'oggi ha decine di spazi occupati autogestiti e sono sicuramente un terreno importante a livello sociale e culturale. Oggi Roma, un po' come tutto il paese, la trovo una città incattivita, a partire dalla questione legata ai migranti, alla questione legata alla precarietà sociale. Ecco, il movimento antagonista non ha saputo negli ultimi anni proporsi come riferimento, questo sì. Nel libro si toccano vari aspetti, da quelli collegati all'antifascismo che ha portato poi Federico a seguire tutto il processo April, che è stato poi parte, diciamo così, della sua entrata dentro Radio Onda Rossa con una trasmissione che raccontava quello che stava succedendo in quel momento all'interno del processo. Tra le varie cose c'è anche un aspetto più strettamente culturale. Secondo te oggi il ruolo della cultura, proprio rispetto a questi elementi che te dicevi adesso, no? Il fatto di un quadro complessivo che ci porta tutti quanti ad essere più soli, di una dimensione che oramai ci pone in stretto conflitto l'uno contro l'altro, dove va trovato il nemico per forza, dove in qualche modo quello accanto a te devi stare attento perché è quello che ti può fregare il posto di lavoro, piuttosto che è quello che, per il quale non rientri dentro alla graduatoria delle case popolari. Secondo te il ruolo e lo spazio della cultura oggi quale è, o meglio il tuo punto di vista rispetto a quello che oggi la cultura può fare per cercare di ricostruire un mondo più umano? Cosa che, tra parentesi, di umanità oggi ce ne sarebbe molto bisogno. Ecco, proprio a partire dal processo PRIP, che è stato un momento storico, perché ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e ha sancito anche la responsabilità individuale, per cui i nazisti non potevano più nascondersi dietro al «ho eseguito ordini». Ha sancito che non è più così, non era una giusta causa. Proprio a partire dal processo Priebke, lì ho capito quanto è importante la memoria storica. La memoria storica e quindi poi la cultura, perché trasmettere memoria storica è cultura. E ti rendi conto di quanto la storia poi sia fatta di corsi e ricorsi storici. Tutto quello che noi stiamo vivendo è stato già vissuto in altre forme, ma sicuramente le dinamiche sono sempre le stesse e purtroppo non impariamo mai dal passato. E questo, un lavoro serio sulla storia, invece ci aiuterebbe tanto. Storia, quindi memoria, che poi è anche cultura, perché anche quasi tutto quello che leggiamo, che vediamo e che ascoltiamo è già stato detto, scritto da altri nei secoli ed è un carburante incredibile, anche come collante sociale, non solo come rivoluzione interiore che uno può portare avanti attraverso proprio lo strumento cultura, ma è anche un fattore di coesione. E su questo anche un certo livello della cura. Ora, guardando il libro è stato autoprodotto, cioè non praticamente passa... sì. Quindi anche qui c'è una filosofia che sta dietro, diciamo così, a un progetto che poi è quello della libreria indipendente che gestite come famiglia, te e tuo fratello adesso, e c'è un livello importante di cura. Guardando questo libro, vedendo il taglio della pagina, il carattere, la leggerezza pure del libro stesso, si vede che c'è tanta passione dietro. E credo che la cura che lui, che Federico ha messo nello scrivere, è la stessa cura che oggi manca, cioè l'attenzione rispetto all'altro e rispetto a una dimensione più umana che si deve sviluppare. E quindi già questo rappresenta molto rispetto, diciamo così, a quello che poi viene scritto qua dentro. Il cinema e la radio. per te nel tuo processo di crescita, che ovviamente è sempre in evoluzione perché non ci si ferma mai, diciamo così, e rispetto anche alla parte da cui sei partito, cioè nel senso il tuo approccio a questo luogo, a questo spazio, diciamo così, un pochino irreale, dove tu parli a un microfono di fronte a persone, che cosa ha significato e qual è il valore che ti porti dentro dopo molti anni oramai di attività a Radio Onda Rossa, al di là di quello che può essere l'elemento umano, cioè la radio oggi quanto può essere strumento, diciamo, reale anche nelle sue sfumature più differenti. Tu oggi non fai più trasmissioni in diretta, ma fai trasmissioni registrate che però vanno sempre a comunicare. Ecco, la radio di Fedingo che è entrato dentro Via dei Volsci a Radio Onda Rossa, e la radio e il ruolo che può avere oggi, secondo te? Intanto dicevi di quello che manca oggi, l'empatia anche, oltre al fatto che ci sentiamo tutti soli, isolati, separati gli uni dagli altri, la mancanza di empatia e anche l'incapacità di ascoltare l'altro. Per dirti, in radio, dando vita prima alla trasmissione di cinema, poi quella di teatro, io ho sviluppato proprio questa attitudine all'ascolto. Io amo fare le interviste, ma questo è venuto del tutto automaticamente e casualmente. Non avevo un programma, anche perché il mio incontro con la radio è stato per vie strane, non era stato programmato. Ecco, lì ti rendi conto di quanto è importante la capacità di ascoltare l'altro e per entrare appunto in empatia con l'altro. Il cinema e il teatro poi sono due passioni. La mia libreria è stata anche uno dei primi video noleggi in città e la passione per il cinema è partita proprio da lì. Mi portavo i film a casa e me li vedevo con grande curiosità. Poi quando sono entrato in contatto con altri colleghi che seguivano i film per delle testate e quindi assistevo alle proiezioni stampa, ho proposto loro di entrare a far parte della trasmissione. Inizialmente era tutta fatta da critici cinematografici che parlavano dei film in uscita. Poi però si è trasformata e ho voluto dar spazio, anche qui per varie vicende, a chi il cinema invece lo fa. Più che dar parola alla critica, è importante sentire il punto di vista di chi quell'arte l'ha generata, qual era il suo intento, insomma. E questo ti arricchisce anche molto. Poi la trasmissione del teatro è partita in altri modi, anche quella casualmente, tutto molto casuale. E anche un percorso importante di incontri, insomma, che hai avuto all'interno di quell'esperienza, dell'esperienza radiofonica. Sì, se tu calcoli che la trasmissione è settimanale, dai 6 ospiti in su, ti rendi conto che durante un'annata radiofonica tu hai avuto interazioni con 300-400 tra registi, produttori, distributori, direttori di festival, sceneggiatori. Quindi è tanto, dal punto di vista umano e culturale, sì, sicuramente. Oggi la radio è immortale, la radio anche in epoca appunto di digitale e di virtuale continua ad avere notevoli ascolti a livello globale, la radio, perché poi mentre altri strumenti ti richiedono una concentrazione totale, tu mentre ascolti radio puoi fare altro, per esempio, e questo ti dà una notevole libertà. Credo che la radio possa continuare a svolgere un suo ruolo, sì, sicuramente. Sempre sull'ambito sociale, insomma, tra le varie peripezie di quegli anni ti è capitato purtroppo anche, diciamo così, di passare dall'esperienza del carcere. Sì. Quanto è cambiato il tuo sguardo rispetto a quello che ti stava intorno dopo quei giorni passati a Rebibbia? Stavate preparando una cosa fuori dal carcere di Rebibbia e poi per varie situazioni, insomma, che purtroppo sono accadute anche in passato rispetto a rocambolesche per il quale, diciamo così, il nome il nome di quel centro sociale è stato associato a tutta una serie di cose, Molotov ritrovate per caso nel giardino, ma di questo insomma sono storie che purtroppo anche successivamente ne abbiamo lette di tutti i colori. Ecco, però quell'esperienza, come ha cambiato il tuo modo pure di vivere la militanza da un lato, ma soprattutto di vedere il mondo? Insomma, queste sono esperienze che, seppure toccate per qualche giorno, qualche ora, non possono, diciamo così, lasciarti immune anche ad una riflessione che c'era. Quanto è cambiato, Federico, dopo quei giorni? Beh, intanto ha stravolto, nonostante siano stati 8 giorni, ha stravolto la mia vita perché poi ho lasciato l'università di lì a poco tempo, insomma. Facevo il volontariato anche al Donguanella in un laboratorio femminile, qui si componevano cestini di fiori secchi. Avevo avuto modo di conoscere gli operatori e le ragazze da loro seguite proprio nella videoteca della mia libreria, chiesi loro di poter fare volontariato e così è stato. E dopo quell'esperienza in carcere ho lasciato anche quello, quindi sicuramente è stata traumatica. Negli anni 70, che sono poi un po' il riferimento politico per chi faceva politica dagli 80 ai 90, idealmente, no? Uno immaginava sempre o sentiva poi le testimonianze di chi quegli anni ha vissuto, erano un po' il punto di riferimento. E lì però ti rendi conto che la solidarietà era diversa. Per chi, ecco, incontrava il carcere in quegli anni, spesso ne sentivi poca di solidarietà. Non dico nel mio caso, ma insomma in generale per chi Anche incontrava. perché il giorno dopo c'avevi il concerto fuori che stavi per organizzare proprio per la questione dei Esatto, diritti in esatto. carcere a Sì, poi Velia. figurati, la Radio Onda Rossa, l'impegno sul carcere è stato tra i suoi elementi fondanti e è continuato nel corso del tempo. Sicuramente poi mi sono reso conto che non c'erano in quel momento, in quel periodo storico, battaglie per cui valesse la pena di finire in carcere. E poi negli anni ti rendi conto che sempre per corsi e ricorsi storici, chi finiva dentro costringeva, tra virgolette, il movimento a iniziative di finanziamento per le spese legali, e poi ti rendi conto che nelle dinamiche di piazza è sempre più facile vedere gente che finisce dentro, perché adesso sei individuabile subito, digitalmente, qualunque cosa succeda, e poi ti rendi conto anche dell'accanimento giuridico, perché una cosa che notavo dopo i fatti del G8 di Genova è che l'accusa di devastazione e saccheggio dal 2000 in poi è aumentata esponenzialmente, con una pericolosità sociale che è molto più ristretta invece rispetto a quello che è successo negli anni 70. E questo la dice lunga anche sul livello di, chiamiamola, militarizzazione del potere da un certo momento in poi. È stato progressivo, insomma, questo processo. La descrizione che la polizia politica dava di te era attivo militante della sinistra extraparlamentare, partecipa a tutte le manifestazioni del movimento antagonista. È solito durante le iniziative di piazza scrivere con bombolette spray lungo i percorsi dei cortei. Ecco, che cosa ci avresti voluto aggiungere a questa cosa qui? Cioè, nel senso, rileggendola, quello che... Al di là del fatto, diciamo così, di una presentazione così, che cosa avresti voluto aggiungere a questa cosa qua e dire qua, guarda, mi siete dimenticati e manca qualche pezzetto. Beh, è molto esteriore. Chiaramente vedono me che partecipa alle manifestazioni e fa le scritte sui muri, ma gli manca tutto quello che è il quotidiano nel sociale e nel culturale, per esempio. Nonostante poi, ecco, la grossa attenzione che la polizia politica riserva a militanti, nel mio caso lì era la manifestazione per Abdullah Öcalan quando fu arrestato in Africa dopo essere stato allontanato, tra virgolette, dal nostro paese, che non gli diede asilo politico come lui aveva chiesto. In quel caso, ecco, tre graduati della Digos mi riconobbero mentre io ero tutto coperto e facevo una scritta sul muro, quindi figurati l'attenzione che hanno verso i singoli che ritengono poi rappresentativi di un'area. Per esempio, sempre parlando dell'attività, diciamo così, di solidarietà internazionale, c'è il passaggio della tua esperienza in Chiapas, che sicuramente rispetto, diciamo così, all'immaginario collettivo è stato un passaggio importante anche dal punto di vista della militanza per molte e molti, nel momento in cui si parlava della capacità, diciamo così, anche reattiva di una piccola vittoria, cioè il fatto che il subcomandante Marcos marciava verso Città del Messico era l'elemento in cui alla fin fine in qualche modo ci poteva essere anche un momento di soddisfazione, di clamore per i diritti della popolazione indigena. Ecco, quanto di Fedingo c'è ancora oggi in Federico? Cioè, nel senso, quanto di quelle esperienze o che cosa di quelle esperienze adesso ti porti dietro come cosa più cara, al di là degli errori, delle cavolate che si dicevano all'inizio, che magari un po' per l'età, un po' tutto quanto. Quali sono i tratti, i sapori, i profumi che ti porti dietro oggi come qualche cosa di caro di quell'esperienza che poi sicuramente ha strutturato e struttura ancora oggi la tua vita? Ecco, proprio per restare sull'esempio Chiapas, che poi è stata una rivoluzione, per me era una novità assoluta. Noi poi, rispetto alle notizie internazionali in Italia, siamo così provinciali. Adesso è molto più facile con internet, ma allora dall'informazione ufficiale si veniva a sapere poco e niente, ecco, di quello che succedeva nel mondo, per cui è stata una esplosione così che io non mi aspettavo e che mi ha meravigliato. Di quella esperienza, per esempio, mi piacque tanto il fatto che erano gli indigeni, i nativi, che si sono rivoltati, e lo hanno fatto con uno stile semplice, poetico. Anche lo stesso subcomandante Marcos, che invece proveniva da un altro percorso, lui è bianco, non è un indios, però si è sempre messo da parte, al servizio. Ecco, questi aspetti sono come io sento di vivere la politica. Per cui, ecco, questa semplicità, questa poetica, anche perché gli indios nei loro comunicati sono estremamente poetici, figurativi, danno veramente uno stimolo all'immaginario. E anche l'umiltà di Marcos, che si è messo al servizio. Già nel termine subcomandante, lui era un semplice portavoce. Quando il fumo si dirada, è per te un punto di arrivo o un passaggio? Cioè, questo libro, rispetto pure ai progetti che quotidianamente hai con la radio, lo senti come: ah, ho tirato fuori tutto quello che dovevo tirare fuori e questo rimane? Oppure è un passaggio rispetto magari anche ad una modalità, per esempio per la scrittura, lavori in libreria e quindi, diciamo così, hai contatto quotidianamente con esperienze di scrittori e di scrittrici. Cioè, pensi che nel futuro di Federico ci siano altre pubblicazioni? Ti è piaciuto scriverlo e soprattutto come ti ci sei approcciato? Anche se ovviamente già dalla partenza si capisce che c'è un passaggio importante per una vicenda tua personale collegato alla perdita del babbo e sicuramente da lì un po' anche un livello di, diciamo così, di tributo che veniva dato. Come lo vivi e soprattutto cosa senti dopo averlo pubblicato? Intanto sono molto contento del risultato, perché tu cominci una cosa ma poi non sai come andrà. È iniziato come una raccolta di momenti, sono dei flash che io ho messo insieme, poi chiaramente è stata un'articolazione anche cronologica, per cui poi ho inanellato ogni singolo ricordo, che alla fine crea una struttura, nonostante non abbia una forma romanzo, perché sono veramente tanti tasselli, che però poi guardando nell'insieme capisci che mosaico è stato. Guarda, la vicenda per esempio del mio prozio, con cui chiudo poi il libro, È stato un passaggio importante perché veramente la sento come un'eredità etica, perché all'ascolto ho un prozio che è stato gasato in un campo di concentramento, era un militare italiano. Durante l'occupazione di Roma, per difendere una persona, lui diede uno schiaffo a un ufficiale nazista nei giardini di San Giovanni, quindi in un luogo aperto, pubblico. Fu subito chiaramente arrestato, poi se ne persero le tracce. Sulla tomba di famiglia lui è dato come disperso in guerra, non se ne sapeva nulla. E poi in realtà mia madre, leggendo un libro di un partigiano che raccontava dell'esperienza a Mauthausen, scoprì in quell'edizione degli anni 60 che nell'elenco in fondo riportava tutto l'elenco degli italiani morti a Mauthausen il nome del suo zio, perché era il fratello di mia nonna. E poi durante un'iniziativa per la memoria storica nel nostro quartiere a Monteverde, in circoscrizione, entrò in contatto con un signore del comitato per la concessione della medaglia agli italiani militari e civili uccisi nei campi di concentramento, e loro hanno ricostruito le vicende del mio prozio, per cui poi abbiamo scoperto che è stato nel carcere militare di Peschiera del Garda e poi a Dachau e poi a Mauthausen, in due campi di lavoro. Insomma, in un anno ha vissuto tre campi di concentramento e due campi di lavori forzati, insomma. E io la sento questa eredità. E quindi poi abbiamo fatto la domanda per la medaglia, che è arrivata nel giorno della memoria proprio quest'anno. La sento questa eredità. Sicuramente non vivo più la militanza, soprattutto degli anni 90. La scrittura mi piace, ho fatto giornalismo per tre quotidiani nazionali e siti internet. Anzi, pensavo che quello sarebbe stato il mio futuro, perché per un periodo guadagnavo abbastanza anche. Anche lì tutto casualmente è successo, non immaginavo di scrivere per i giornali, invece è successo e poi i giornali hanno chiuso. Quindi chissà, sicuramente continuo ad avere una mia coerenza, quindi tutte le cose che farò, non so che tipo di battaglie saranno, se ci saranno battaglie in futuro, però ecco, sempre con questa linea mia di comportamento, di rigore etico, e poi chissà, magari la scrittura porterà altre cose, è tutto da vedere. Grazie a Federico per questa serata. Tra poco clorofilla, quindi rimanete in zona. Grazie ancora. Grazie a te.